Pasqua. E si roblio. Lascia perdere la. Mo' ti racconto una storia. Prosciutto nella merda. Cacca sì. Bella Leo, yeah. Ho conosciuto una tipa il mese scorso in gita a Roma, nei pressi del Colosseo. Power, ascolta rap, yeah. Dice che mi conosce, dice che è una mia fan da Clasher vs Panam. Power, la cosa in fondo mi suscita interesse. In fondo è carina in confronto alle sue amiche eccesse, yeah. È una bionda tinta, porta una bella quinta. Questa è un alternativo demo de che le dà grinta. Questa è una tedesca, è qua con la sua classe. Mangia crauti dal mattino e l'alito è una fiesta. Mi porta in camera, sculetta tipo papera, yeah. Guardandola meglio mi rendo conto che è un po' cessa. Mentre mi fissa noto pure che è un po' strabica. Mi chiama ancora griffa e puzza come una discarica. Ha fatto tutto lei, mi ha sdraiato e mi ha scopato. Ma qualcosa mi è sfuggito ed ora mi sono sposato, no. Prendiamo questa cagna, col cazzo sculacciamo. La sua figa si bagna, sfondiamo pure l'ano. Clasher, Gri, Siro, Blio. Buchi, buchi, buchi, buchi. Prendiamo questa cagna, col cazzo sculacciamo. La sua figa si bagna, sfondiamo pure l'ano. Clasher, Gri, Siro, Blio. Buchi, buchi, buchi, buchi. Bella griffa, vuole la mia lingua. Questa tipa una vichinga, altro che casalinga. Casalingua, lampadata, monella vagabonda con la coca. Nella vasca da bagno topa loca. Troia foca, tocca la mia broda. Qui gatta ci cova, gli ballano le uova. Succhia palle e peli, a me modello come credi. Facciamo giochi fetish, incastri come in Tetris. Scatta foto col Bacardi, momenti ammiccanti. Mi sega con i guanti, legge la mia mente come i cartomanti. Fa patata appetitosa, popo portentosa. Scoperto che io sono della Boys Clan. La panda, la sua pelle più mulatta che mi rende un baccalà. Lei mi vuole in ipare, tra culotte e guluas. Obla di, obla da, vengo in faccia questa tipa da MySpace. Pugniamo questa cagna, col cazzo sculacciamo. La sua figa si bagna, sfondiamo pure l'ano. Clasher, Gri, Siro, Blio. Buchi, buchi, buchi, buchi. Pugniamo questa cagna, col cazzo sculacciamo. La sua figa si bagna, sfondiamo pure l'ano. Clasher, Gri, Siro, Blio. Buchi, buchi, buchi, buchi. Pugniamo questa cagna, col cazzo sculacciamo. La sua figa si bagna, sfondiamo pure l'ano. Clasher, Gri, Siro, Blio. Buchi, buchi, buchi, buchi. Pugniamo questa cagna, col cazzo sculacciamo. La sua figa si bagna, sfondiamo pure l'ano. Clasher, Gri, Siro, Blio. Buchi, buchi, buchi, buchi, buchi. Parigi, buchi, buchi, e Milano in connessione.